Chi sgobba ma s'ubriaca non arricchisce, e chi disprezza le piccole perdite presto va in rovina. Il vino e le donne fanno perdere il senno, ma è più pericoloso bazzicare le prostitute. Putredine e vermi saranno la sua sorte. L'uomo senza scrupoli sarà spiantato. Chi si fida troppo presto è di cuore leggero, e chi fa il peccato sbaglia a suo danno. Chi si rallegra nel male sarà condannato, e chi odia le ciarle evita tanti guai. Non ripetere la parola udita, così non avrai mai danno. Non propagare le cose dell'amico o del nemico. Parla solo se il silenzio diventa complicità. Venutolo a sapere, l'altro starà guardingo con te, e quando avrà l'occasione te la farà pagare. Se hai sentito una parola, essa muoia con te. Sta tranquillo che non ti scoppierà dentro. Di fronte ad un segreto, lo stolto alle doglie, come una donna al momento del parto. Come freccia conficcata nella carne è il segreto nel petto dello stolto. Con l'amico verifica la diceria sul suo conto. Se fosse vera, non continuerà a sbagliare. Tratta con l'interessato quanto gli si attribuisce, così se l'ha detto non lo ripeterà. Appura con l'amico quello che spesso è una calunnia, e non credere a tutto quello che senti. Si può scivolare, ma senza volerlo. E chi non ha sbagliato con la lingua? Richiama il tuo vicino prima di minacciarlo, così osserverai la legge dell'Altissimo. Tutta la sapienza è timore del Signore, ed in ogni sapienza c'è la pratica della legge. La conoscenza del male non è sapienza, e non c'è senno nel consiglio dei peccatori. C'è un'astuzia che è abominevole, e chi manca di sapienza è un dissennato. È meglio il timore del Signore con poca intelligenza che l'eccellere della mente con l'offesa della legge. C'è un'astuzia cavillosa e quindi ingiusta, e c'è chi imbroglia ma per ottenere la sentenza giusta. C'è il malvagio che si mostra piegato dall'afflizione, mentre dentro è pieno di menzogna. Fingendosi sordo e con la testa bassa, quando non è visto, ti scavalcherà. Se non ti nuoce per mancanza di forza, alla prima occasione ti farà del male. L'uomo si può riconoscere a prima vista, e chi è saggio da come si presenta. L'abbigliamento, il sorriso dei denti, il modo di incedere, rivelano il suo tipo.